Bozzo. Ultimo pezzo. Resce Nebeck. Gli alti e bassi. Tutti. Uscirà, uscirà. Fra non molto uscirà. Vorrei ancora sperare. Non c'è ancora rassegnazione in me. Per quanto cerchi, scovi soltanto indizi. Ti ritrovi al centro di cerchi di grano. Cerchi di uscirne, scintille dal cielo. So che deliro, ma desidero. Mi riprendo il fiato dal micro per averne abbastanza. Coincido coi miei spazi d'umore. Consiglio, perché attraversarlo fa male. Nell'orbita ho scolpito ogni illustrazione più vera che viva. L'esperienza è la sciva, tanto quanto trionfarne. Spera solo di evitarmi e miei compagni. Visto che ti arrangi, sei grande. Cerca di non scontrarti coi tuoi genitori. Che dopo tu non abbia a pentirtene. Taglie, ma in nome di cosa? È quasi solo ostinazione che ti sprona. Trema, non lasciarsi abbattere. È un ottimo consiglio per gli altri. Ma se stessi non si riesce a fottersi, raccontandosi tra cascata, catana sguainata. Gode tutta nel taglio, ripercorrendo la mia vita. Si sostenga tranquillamente il contrario. Ci abbiamo guadagnato nel cambio. Sì, serio, ricambio, ma non con la stessa moneta. Voi con l'euro, io con l'ira. Era ora che reagisse. Nuovo scempio che mastisce direttamente dalle viscere. Lo spiego. Alti e bassi del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Alti e bassi del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Del mio alter ego. Oh, oh. Sulle mani, Zeo. Oh. Oh. Sembro malato, tanto sprite. Ho baratto la mia vita con una certezza in cambio. Non esagero a mostrarmi, sostrandomi quel poco che mi trovo in dotazione. Sembrandomi un coglione, se stanotte voglio crederci. Nascondendo brividi di rabbia sotto troppi culi di tensione. Ricorda come sei arrivato ad oggi. Rivolgi altrove i tuoi sistemi. Mi sistemi, non ci sono problemi. Vedrai, si sistemerà tutto domani. Imparo a congiungere le mani. In arte master core. Ricami che comporranno parole a voi strane. Altre cose familiari, familiari compresi. Presi del pessimismo, scrivo tesi su Tommy. Ripercussioni lasceranno esanime il mio corpo. Torcerò il volante prima di perdere il controllo. A tutt'oggi non so quando. Impugno il maglio, fonico per difesa del mio angolo. Offendendo pure il pubblico se occorre. Noi pochi tra tante altre merde. Abbaiare vi diverte, cani. Sai quanto non ci vuole niente per ricevere un pendente. Anche emotivo, è motivo d'orgoglio. Sufficiente a sopravvivere altre notti. Se sopporti quanto odio si nasconde dietro i sorrisi di ognuno dei miei giorni. Ma devo ringraziare il mio bisogno estremo. Se tengo la catena il mio alter ego. Alter ego, alter ego, alter ego, alter ego. Se tengo la, se tengo la catena il mio alter ego. Alter ego, alter ego, alter ego. Oh. Sulle mani. Oh. Oh. Quando lo scarto, fra poi gli opposti provoca una scarica. Il centro del mio ego prende vita come un Frankenstein in te. Forza disumana che mi anima. Travolgente scuote quel che intorno e lo contamina. Non serve più a niente restare a contemplare. È il momento di portare a collassare questo corpo mentre sanguina. Ultimi colpi, quelli decisivi alla ricerca disperata dei motivi che non muoiono. In mezzo a corpi che nella sofferenza ancora colgono il valore dei sospiri. Sono gesta dettate da tensione. Nella gestazione di un altro peccato e di una nuova redenzione. Vado nutrendomi di sentimenti negativi che mi date. Per distillare bevande con cui vi disseterete. Un altro flusso va formandomi. Plasmando l'illusione che ascoltate. Plasmando l'illusione che ascoltate. Voi che nutrite serpi in seno, ora pregate e ringraziate. Il mio bisogno estremo, quella sensazione con cui allevio la rabbia, il disgusto, il rancore più nero. E non provate ad insultarmi propinandomi il vostro luogo a meno. O almeno non cercate di far breccia in quel che ho dentro. Troverete il mio alter ego. Grazie a tutti!